Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Se fossimo in video vedreste i miei occhi che brillano e vedreste il bambino che è in me rinascere, perché oggi vi racconto una storia, la storia di una grande famiglia italiana, di un uomo in particolare, ma di tutti i suoi fratelli, una famiglia che ha cambiato la vita di milioni di bambini, compresa la mia. È una storia che ha le sue radici nella grande ricostruzione post seconda guerra mondiale, con delle persone povere che partono dal nulla, col nostro protagonista che costruisce insieme alla sua famiglia un impero, che cerca fortuna all'estero, la trova, non si accontenta, ritorna in Italia e di colpo d'ala in colpo d'ala riesce a legare il suo nome e il suo genio tipicamente italico a un impero per il quale tutti i bambini della mia generazione continueranno a ringraziare. Ragazzi, qui stiamo parlando di un mito, perché per noi Panini Modena rappresenta un mondo che tutti quelli che hanno più dell'età mia o anche me si ricordano, vero? Raspelli, i Panini Modena, le figurine, chi non si ricorda, oggi non le potrebbero più fare con i calciatori che ci sono oggi, perché quando c'erano quelle figurine meravigliose dei nostri anni, quando c'erano i calciatori che erano uomini veri, che anche dai cognomi, i calciatori, se Burnic, c'era Romeo Benetti, non so se ve lo ricordate, Romeo Benetti, che era una cosa, quella figurina c'era qualcuno, la usava, la mettevano davanti ai cancelli delle ville come deterrente per furti. Eh sì, Fiorello, che è un altro della mia generazione, è rimasto anche lui segnato dalle figurine Panini. È la storia industriale, culturale del nostro paese, e si torna subito in mente all'infanzia, alle raccolte. Io ne le facevo tutte e ne ho finite parecchie, con l'ansia di strappare la bustina, di guardare, cielo, manca, questa ce l'ho, questa invece è doppia. Però la storia delle figurine Panini è la storia soprattutto di una delle grandi famiglie imprenditoriali italiane, una famiglia numerosissima, trascinata al successo da quattro fratelli, capitanati dal più grande, Giuseppe Panini, un leader, l'uomo che ha inventato il business delle figurine, che ha anticipato concetti fondamentali quando il marketing ancora non si chiamava marketing, ma esisteva già. Oggi noi vi raccontiamo la storia del terzo dei quattro fratelli, Umberto Panini. È un pezzo fondamentale di questa famiglia, di questa storia, e forse il più avventuroso, il più intraprendente della famiglia, un uomo incredibile dall'energia inesauribile, un uomo che ha detto più volte: tutto quello che ho realizzato l'ho fatto divertendomi, non mi sembrava di fare fatica, che è la chiave del successo dei grandi. Umberto Panini nasce a Pozza di Maranello, siamo in provincia di Modena, il 3 febbraio del 1930, da Antonio e Olga Cuochi. È una famiglia numerosissima, quella dei Panini, come nella migliore tradizione contadina. Loro hanno 8 figli, 4 maschi e 4 femmine, e in questa coppia c'è la radice di quelle attitudini che saranno le fondamenta della loro fortuna familiare. Ecco come la sintetizza Umberto nella sua autobiografia L'America è qua. I miei genitori erano molto diversi tra loro. La mamma con i piedi per terra, mentre il papà un po' spanizzo, sempre pronto a buttarsi a capofitto in ogni avventura. Noi figli abbiamo ereditato da entrambi una certa attitudine alla vita. Un mix delle due personalità che ci ha permesso di essere dei creativi concreti, ovvero delle persone razionali ma sensibili, che hanno messo sullo stesso piano, con la stessa determinazione, l'industria, l'arte, la musica e la mania per il collezionismo. È una famiglia numerosa, povera, con una casa modenese che il padre affitta nascondendo al proprietario il vero numero totale dei figli. Un appartamento al terzo piano, accessibile solo attraverso una scala di servizio, i bambini che dormono in due per ogni letto, con un solo bagno da condividere con i vicini di casa. È quella l'Italia povera, l'Italia che paga l'avventura bellica, un'Italia che fa fatica a portare a tavola il cibo per sfamarsi. Sono queste le radici di Umberto e della sua famiglia, ce lo ricorda anche un amico dei Panini, il giornalista Marino Bartoletti. Io direi che tanti giovani di adesso dovrebbero avere la fortuna di poter fare un viaggio nel tempo e tornare nel primo dopoguerra italiano. Sicuramente vedrebbero le macerie, sicuramente vedrebbero la fame, ma vedrebbero anche una grande speranza che sembra si sia perduta. Modena, l'Emilia-Romagna, l'Italia, seppure con le pezze nel sedere, erano un grande laboratorio su cui l'Italia stessa, grazie anche agli uomini che ritrovarono le forze, lo spirito di sacrificio, soprattutto la fratellanza per guardare avanti, attraverso questo poterono ricostruire questo paese. Eh sì, parole sante, quella era un'Italia che con le palle, diversamente da questa. Gli sforzi del capofamiglia Antonio sembrano avere successo e poi Antonio muore, rimane la madre Olga con 8 figli da sfamare, trova un lavoro come sarta, i tempi sono terribili, a tavola arrivano solo le patate, però i figli, anche se sono piccoli, piano piano cominciano a contribuire al bilancio familiare, fanno quello che possono. Lui, Umberto, a 12 anni aiuta lo zio nell'officina di famiglia, a 14 comincia a lavorare come fabbro e meccanico in una bottega a Cogneto, che è una frazione di Modena. Insomma, di lavoro in lavoro Umberto si sta facendo le ossa e fa pratica per fare emergere un vero talento, quello che gli permetterà negli anni successivi di trovare la sua strada. Il falco e il gabbiano. Così Umberto Panini sta cercando di fare le prime esperienze e soprattutto di contribuire al precario, al disastroso bilancio familiare. Nel 48, a 18 anni, va al sud, in provincia di Caserta. C'è un salumificio di alcuni cugini, è un altro mondo, è una lingua che lui non capisce, ma lui vuole lavorare, comincia a sfruttare il suo talento per la meccanica. Inventa una macchina per tagliare la trippa, un'operazione che i cugini avevano fatto fino a quel momento a mano con un'accetta pericolosa. Insomma, ha questa grande capacità, riesce a immaginare strumenti meccanici per migliorare i processi di lavoro. Questa sarà la fortuna sua e della sua famiglia. Nel 53 torna al nord, va a lavorare alla Maserati Moto, è il primo impiego fisso vero e proprio, con tanto di libretto di lavoro, comincia a fare carriera, diventa collaudatore, però non sopporta l'ambiente perché è pieno di regole, di restrizioni per i lavoratori, la sindacalizzazione è ancora molto lontana e l'azienda ha delle pratiche difficili da digerire. Quando si usciva alla fine del lavoro poteva capitarti l'ispezione corporale. Mentre si marcava il cartellino succedeva che all'improvviso si sentisse lo squillo di un campanello che cominciava a suonare all'impazzata. Il malcapitato a cui era toccata in sorte quella seccatura doveva andare in un locale dove veniva perquisito per verificare che non portasse all'esterno qualcosa di proprietà dell'azienda. A volte si veniva spogliati del tutto fino a restare in mutande. Lui rimane altri 2 anni in Maserati. Nel 54 viene licenziato perché si ferma a chiacchierare con una ragazza che però è l'amante di un caporeparto. Era questo il mondo di quegli anni. Cioè, oggi non riescono a licenziare quelli che alla Malpensa rubavano nelle valigie e allora si perdeva il lavoro per una cosa del genere. Però nel frattempo, da alcuni anni, la famiglia ha preso un'edicola che ha rilevato con enormi sforzi. E l'edicola è la vera attività di famiglia, perché in un punto cruciale di Modena tutti i fratelli e le sorelle a turno se ne occupano sotto il costante controllo della mamma Olga. Sentiamo ancora Marino Bartoletti, giornalista, amico della famiglia Panini. La cosa accadde a fagiolo perché quello è un momento in cui l'Italia aveva voglia di tornare a leggere, era stanca di consumare soltanto, come dire, gli scritti di regime, quindi aveva fame di tutto quello che le veniva proposto. Però i Panini ci misero qualcosa di loro, perché era facile, fra virgolette, aprire un'edicola e basta, ma in realtà loro cominciarono a fare, che ne so, gli abbonamenti, cominciarono a portare i giornali porta a porta, recuperarono nel macero vecchi giornali usati che in qualche modo riuscivano a riciclare. Pensa che cancellavano le parole crociate scritte allora a matita per poter rivendere in qualche modo quella che era la settimana enigmistica. Fecero una piccola impresa e crearono un'operazione di marketing senza sapere che il marketing esisteva. Umberto sta seguendo soprattutto la sua strada, che è quella della meccanica, però vedete, c'è una famiglia di imprenditori potenziali grandissimi. Modena però gli va stretta a Umberto, comincia a pensare di lasciare l'Italia. Italia, pensa al Canada, però è complicato trasferirsi là perché in Canada non è che vanno tutti, è difficile. E allora va, il suo sguardo si rivolge al Sud America e va in Venezuela. Si lascia dietro la famiglia, anche una fidanzata conosciuta in quegli anni, va a Genova e il 27 gennaio del 57 si imbarca direzione Maracaibo. E lì ci sono molti emigrati italiani che sono attirati dalle possibilità di lavoro nel settore petrolifero. Proprio questa rete di connazionali che conosce sul posto gli permette di trovare subito la strada, sopravvive agli inizi difficili perché è sorretto dalla sua esperienza nella meccanica, trova impiego in un cantiere navale, inizia a fare i primi soldi, lavora come meccanico, le cose vanno bene rapidamente, riesce a trovare quella fortuna a cui aspirava, si sistema economicamente. E allora può pensare agli affari di cuore perché lui quella ragazza lasciata a Modena non l'ha dimenticata ed erano periodi in cui le donne ti aspettavano. Sono passati 2 anni e nel 1959 i due si sposano per procura. Nella chiesa di Sant'Agostino ci sono Tina e il fratello Giuseppe e di là c'è lui che l'aspetta e a 3 anni dall'ultima volta che si sono visti Tina lo raggiunge in Venezuela, è sua moglie. E lui in Venezuela vive anni felici, ha una famiglia arricchita dall'arrivo della prima figlia Manuela Francesca, è un benestante, però il fratello da Modena lo tempesta di lettere, torna all'America, l'abbiamo trovata qua perché Giuseppe ha avviato un'attività, le figurine e le potenzialità sono enormi, però ha bisogno delle competenze del fratello. Lui, spinto dalla voglia della moglie di tornare in Italia, chiude la sua parentesi venezuelana. Lui rientra per votare alle elezioni del 63, non se ne andrà più, i fratelli lo convinceranno a restare in Italia. È un altro colpo d'ala per un'avventura che è appena partita ed è un'avventura che cambierà la storia di milioni di bambini. È l'avventura delle figurine, le figurine Panini. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una meravigliosa storia italiana, forse ancora più bella per quelli della mia generazione e della generazione immediatamente seguente alla mia. È la storia di Umberto Panini, terzo di 4 fratelli che con le loro figurine hanno scritto delle pagine della storia industriale e culturale, pagine indimenticabili per tanti nel nostro paese. Peraltro una bellissima storia di emancipazione dalla povertà, colpi d'ala che hanno sempre spinto Umberto su una strada costellata da successi, determinati dal suo talento, dalla voglia di lavorare, di costruire, e nel contempo è la storia di una famiglia incredibilmente unita. Umberto è appena tornato in Italia dopo aver fatto fortuna in Venezuela. Lui cede alle insistenze del fratello maggiore Giuseppe e, partito dall'edicola di famiglia di Modena, ha inventato un business pauroso, il business delle figurine. Insieme a un altro fratello, Benito, ha comprato a Milano un lotto di vecchie figurine invendute, le ha imbustate in bustine bianche con cornici rosse, con 2 figurine ciascuna, le ha vendute a 10 lire l'una e il successo è inaspettato. 3 milioni ne vende. Lui capisce le potenzialità dell'affare, ha bisogno del fratello Umberto, lo convince a lasciare il Venezuela. Però per continuare il racconto adesso c'è bisogno dell'aiuto di una persona che questa storia la conosce molto bene: Manuela Francesca Panini, figlia di Umberto, curatrice della sua autobiografia L'America è qua. Buongiorno Manuela. Buonasera Enrico. Buonasera, ciao. Buonasera. Senti, io l'ho detto prima, insomma, sto raccontando questa puntata con gli occhi che brillano perché, e sto raccontando della mia infanzia, perché per me, insomma, le figurine Panini sono state, erano il primo pensiero quando mi svegliavo e l'ultimo quando andavo a dormire, cioè il pensiero di trovare quelle che mi mancavano, eccetera eccetera. Ma noi, parlando di Umberto, stiamo parlando anche e soprattutto della sua propensione verso le invenzioni. Ci spieghi bene cos'è la Fifimatic? Ecco, è stata una delle invenzioni più importanti che il papà ha fatto e che ha permesso poi alla Panini di fare il salto nel sistema industriale. Certo. È una macchina veramente particolare e molto complicata che permette di imbustare le figurine all'interno della busta e poi la busta viene successivamente sigillata, ma questa in maniera seriale e molto produttiva, quindi con una tempistica molto ravvicinata, quindi sai, prima venivano imbustate a mano e poi la busta veniva chiusa con una macchinetta sigillatrice e da quel livello e poi bisognava industriale, poi bisognava evitare che ci fossero le stesse figurine dentro, le doppie, no? Questa è un po' una leggenda, il fatto che la figurina non si trovasse, perché poi sai, erano fogli che venivano, i fogli dove tutte le figurine erano stampate e quelle venivano tagliate, per cui il numero delle figurine era lo stesso in ogni foglio. E poi foglio, si potevano realtà, chiedere le ultime 20 mancanti, io alla fine spedivo. Sì. Era la frase storica, no? Ce l'hai fatta, ho spedito, che voleva dire ho finito l'album, esatto. Mi mancano solo quelle che che posso chiedere. Senti, come si completavano a vicenda i fratelli Panini? Ma guarda, diciamo che era un'alchimia veramente familiare, nel senso che ognuno dei fratelli aveva le proprie competenze e tutti insieme formavano veramente, diciamo, un sistema armonico sia di ideazione, di progettazione, ma anche di produzione. Certo. E questo veramente ha rappresentato la base solidissima sulla quale poi l'azienda si è sviluppata nel corso degli anni. Andavano molto d'accordo, Enrico. Sì, molto, quello sì, cioè, molto, quello si intuisce. Molto d'accordo, sì, molto d'accordo. Non litigavano mai. E diciamo che noi figli stiamo proseguendo nella stessa strada, andiamo tutti molto d'accordo. Siamo un imprimatur abbastanza è importante. Marchio a fuoco. È importante. Sì. La raccolta Panini era anche figlia di quei tempi, erano i tempi nei quali i giocatori rimanevano anni nella stessa squadra, in cui c'erano le bandiere, insomma, adesso sì. non voglio dire, ma insomma era un altro mondo, un altro calcio, un altro mondo, e sì. Poi c'erano, lo ricordo, c'erano l'altra raccolta fantastica, erano i campioni dello sport, che erano quella. Tutti, cioè, c'erano atleti, ciclisti, eccetera, eccetera. Sì. Tu adesso che la Panini è rimasto il marchio, ma non la famiglia, esatto. Come vedi questo nuovo mondo di figurine globalizzate? Lo vedo con i piedi nel passato, però sicuramente lo sguardo volto certo. al futuro, nel senso che io so tutta la storia, però sono anche interessata allo sviluppo, nel senso che questa è una storia che mio papà e mie zii hanno avviato, sicuramente non perché si bloccasse, ma perché certo. andasse avanti seguendo lo spirito del quindi tempo. Quindi fate il tifo per gli inglesi, diciamo. Sono inglesi, chi sono inglesi, americani? No, è una proprietà è di un ex manager, per sì. cui l'hanno ormai naturalizzato modenese. Ah, beh, siamo rimasti, allora faccio il tifo anch'io. Quasi tutto a Modena. Allora faccio il tifo anch'io. Sì. Manuela, sei stata gentilissima. Grazie a te. Grazie, abbiamo cercato di spiegare che cosa rappresentano per una generazione le figurine Panini. Grazie. Ci sei riuscito, grazie a te Enrico. Ciao. A presto, ciao ciao. Che l'avventura imprenditoriale delle figurine Panini sia una storia di successo è fuori da ogni dubbio, perché ci sono i numeri a testimoniarlo e ne cito alcuni che Panini racconta nel libro. Il fatturato raddoppia di anno in anno fino ai 165 miliardi degli anni 80. Anche oggi, per i mondiali del 2006, sono state vendute 900 milioni di bustine, 5 miliardi e 400 milioni di figurine, una per ogni abitante della Terra quasi, anche perché oggi le figurine sono state esportate in tutto il mondo, le vedete gli album che compaiono in più di una lingua, insomma è diventato un business veramente mondiale. Ma le strade della famiglia Panini, di questo loro gioiello industriale, si separano dalle figurine nel 1988, quando decidono di vendere a un investitore inglese. Lì, diciamo, il trionfo è già avvenuto e ogni fratello prende la sua strada. Umberto la sua strada la trova in campagna, si avvicina alla natura non per riposarsi ma per dare altri colpi d'ala. Nel 1972 ho comprato un'azienda agricola appena fuori Modena, in località Corletto, vicino a Cognento. Era piccola, circa 30 ettari di terra. Poi, con i proventi della vendita della mia quota della Panini, l'ho ingrandita nel corso degli anni, fino a farla arrivare a 300 ettari. L'ho chiamata Ombre, alla spagnola. Ecco. questa la nuova avventura, l'azienda agricola Ombre, e Umberto la interpreta come ha fatto sempre, con occhio lungo, quando ancora non è di moda fare qualità italiana, puntando tutto sulla materia prima, sulla gestione della filiera. Lui introduce i concetti, lavora duramente per attuarli, e l'esito di questa attività è per esempio il parmigiano reggiano DOP, parmigiano di alta qualità che oggi ha clienti in tutto il mondo. E poi lui non si dimentica della meccanica, che è sempre la sua prima grande passione, e l'applica alla coltivazione e all'allevamento. Per esempio l'alimentazione del bestiame avviene attraverso un contenitore mobile in cui vengono miscelati, distribuiti i componenti della razione, tutto in automatico. E lui costruisce l'attività di Ombre secondo dei principi che ancora oggi sono molto coraggiosi, sono lungimiranti, non è roba da tutti, lo si capisce perfettamente da come descrive la sua mandria di 500 mucche da latte. È una mandria felice, anche se togliere alle vacche tutti i medicinali, per così dire tradizionali, non è stato facile perché la razza si era ormai adattata ai farmaci. Quel che è certo è che faccio tutto il possibile per far star bene i miei animali, dai paddock alla stabulazione libera nei boschi appositamente piantati, fino alle fasi della mungitura, dove ascoltano musica classica, perché così si tranquillizzano e producono latte di miglior qualità. Io sto in città. Insomma, forse la parte preferita della sua vita Umberto l'ha vissuta qui, tra i campi, le vacche, tra i motori da lui inventati o perfezionati. Insomma, l'ennesimo colpo d'ala di un uomo dall'energia fuori dal comune. Sentiamo ancora Marino Bartoletti. Ma Umberto si è saputo ricreare tante volte, a maggior ragione quando in qualche modo i fratelli Panini poi cedettero il loro figlio più bello, cioè la loro casa editrice delle figurine Panini. Ci fu come Franco, fu l'unico che restò nel campo dell'editoria, e chi invece come Umberto, che aveva più fantasia, aveva più esperienza, come la vogliamo chiamare, da uomo che aveva vissuto nel mondo, capì che poteva puntare su un'altra cosa che era ulteriormente spiazzante, che in qualche modo richiamava la sua esperienza americana, i grandi spazi, le grandi mandrie, la fazenda, e declinarla in chiave italiana, anzi direi soprattutto in chiave emiliana e modenese in particolare. Quindi la sua terza, forse quarta vita, perché in realtà poi di vite ne ha vissute tante, fu quella nella quale si ritrovò più appagato che in tutto il resto della sua vita. Ha visto morire i suoi tre fratelli, però li ha visti morire felici per tutto quello che hanno fatto assieme. Credo che anche lui sia andato felice per la gioia che ha dato e che si è saputo dare da grande italiano. Un grande italiano, parole sante. E lui muore a Modena il 29 novembre del 2013, 83 anni, muore sorridendo, è andato via con la serenità di chi ha avuto una vita piena di affetti e di successi. Quando mi chiedono se la miseria è una maestra di vita buona o cattiva, rispondo: buona, se sai prenderla per il verso giusto. Ti insegna a rispettare te stesso, gli altri e le cose. Ti dà un ordine da rispettare. In occasione delle nostre numerose riunioni familiari, guardo mia moglie, guardo i miei figli, i miei nipoti, gli altri parenti. Ripenso a quelli che non ci sono più e mi viene spontaneo pensare grazie. Abbiamo raccontato una meravigliosa storia italiana. Noi ci auguriamo che da qualche parte ci siano altri italiani con la creatività, l'ingegno della famiglia Panini e del nostro protagonista principale, Umberto Panini. Tutti possono provare a volare in alto ed è ora che questo paese trovi qualcuno in grado di volare in alto un'altra volta. E se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano chiocciola radio 24.it, visitate la nostra pagina, visitate i miei, i nostri Facebook, Twitter, insomma lo sapete, se volete ci trovate e mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.